10. C'è qualcuno sul canale 10? Sì, non lavora. C'è avanti? C'è qua canale 10. Beh, Antonio. Come faccio a te? Che stavo facendo dei settaggi su questo apparecchio. Come mi senti come radio? Bassa, normale, distorta? Oh, bella. Già va bene, come è una buona radio. Ma è anche distorta, Sì, ho un microfono da palmo. Ti volevo dire, hai visto che razza di propagazione feroce che c'è? Già l'ho vista, già. Da quando stavo adottando i vulcani e poi c'è il sole che sta tirando le balle, c'è la propagazione. Meglio così, perché di solito era molto il baracchino. Figurati tu. Adesso c'è propagazione americana, russa, di tutto, di più c'è adesso. Sì, ma poi si sentono anche servizi che non potevamo pensare neanche che ci fossero qua. Sotto si sentono gente parlare come se fossero dei servizi particolari. Sul 15, non mi ricordo se era quello alfa o sul 15 normale, si sentivano le previsioni meteo. Allucinate. No, quello non ci ho mai fatto caso, però l'altro giorno c'era una che ripeteva tre volte le cose, sembrava di quei servizi tipo tassì, cosa del genere. C'era una voce di donna che diceva sempre per tre volte le stesse cose. E io ho detto bu. Sì, poi si sentiva anche che pensavo fossero spagnoli, eccetera, invece c'era il Brasile che stava facendo chiamata in inglese, San Paolo del Brasile, eccetera, eccetera. E un segnale pazzesco, ho detto, ma questo deve essere un bidone. Poi invece l'hanno chiamato, dava tutte le coordinate, eccetera, eccetera. Ma veramente sono rimasto a bocca aperta, ho detto, ma cosa siamo? Via satellite. No, Brasile io ho sentito di solito sul 9 insieme a parlare di notte, però verso le 9:30 o qualche cosa, cioè, sono in 4-5 che parlavano da Brasile, poi adesso ci sono gli spagnoli parlato lì a quell'ora, verso 9:30. Poi vabbè, c'è la propagazione ucraina, di tutto di più c'è, a parte gli americani che arrivano a 9:20 qua proprio il Kentucky, e cominciano Ario, quando stanno accordando, cazzo, mi segna YouTube. Infatti, è una cosa un po' un po' strana rispetto anche al tempo che ci abbiamo. Segnaloni veramente, segnali forti forti. Dimmi se aumentando magari c'è innesco con questo, vediamo un po'. Ecco, ha aumentato un pochino la potenza. Ecco, così forse è troppo. È successo qualcosa? No, niente fischi. La radio è perfetta, chiara, e non avevi saturazione. Ah, ottimo. Sono anche distante, solo che da palmo, cavolo, è un bel faticoso, questo pesa che anima radio, perché è un microfono, non i CB, è di quelli professionali, ma pesante, dentro c'è un coso di piombo, deve essere. Infatti adesso lo tolgo e passo al suo, che è leggero. Cos'è? Il microfono del BB più 4, cioè no del BB più 4, del Bobico 40, che era piccolino, era piccolino. E ho detto, che strano, ho detto. È pesante questa cosa un po'. No, per dentro c'era un pezzo di ferro, c'era. E una capsula piccolina. Mi ha aiutato a alzare il microfono. ecco, adesso sono passato su quello sempre da Palmo, l'originale, però è molto più agevole, pesa un terzo, è cambiata di molto la radio, e comunque anche se magari più bassa è comprensibile. No, no, già è perfetta, è 5 la radio, capito? Quella, quella capsula di poco fa rimane più sensibile, più che altro, si sentiva tipo l'effetto quando sei in una camera vuota, un po' di effetto cattedrale. Esatto, appena l'effetto cattedrale, sì. Se avessi dato la buona anima di Giuseppe Tretti, sarebbe stata cattedrale davvero la radio. Aspetta che lo abbasso. Quelli che fanno i vaccini sono. Ah, e 0,50. Sì, 4,33. 0,75. Ah sì, loro sono 0,75. Sono a bassissima potenza, li ho visti i portatili. Sì, loro li possono usare perché c'è lo statuto secondario lì. Sì, ho visto che c'è rimane Bofeng pure, figurati, li ho tolto, stavano usando l'altra volta, di tutto di più c'era, c'erano balancini, li hanno provati, tutti comportati in mano, tutti lì su 433, i miei piedi, tra le uno. Invece il PMR c'era fino a 4 mesi fa, c'era il pronto soccorso e poi i vari scaglioni che ci sono, cioè i vari piani, fino al sesto, usavano i portatili. Dopo di che adesso, tutti, non ho più sentito nessuno. Beh, meglio così, perché quelli che sentivi erano in terapia intensiva, li usavano di portatili, poi sarà un po' finita questa emergenza, non si spera. Speriamo, a Cagliari comunque è pieno. Stamattina io ho dovuto fare un ventina di telefonate per fare una prenotazione al Cupo di Cagliari, figurati. Sono riuscito a rispondermi alle 3 di sera stasera. Mi hanno messo la musichetta, gli ho detto, cazzo, era ora. Sembrava la musichetta, dico, quando dovevi fare l'abbonamento di Sky, che stavi in mezzo lì, sentivi la musichetta, dopo che li prendevi a bestemmie, buongiorno signore, mi dica. Oppure, come quando c'hai la linea DSL che non funziona e chiami la team, attendere, prego. La linea intasata si prega di richiamare più tardi, dopo ci sei mezz'ora, no? Al più presto sarà richiamato un operatore. Sei fresco allora, come Sky, quando le dava le bestemmie, allora ti rispondevano subito, capito, gli operatori che ci sono di call center. Deve essere che adesso lavorano solo di sera lì a Cagliari, la mattina non lavorano, evidentemente o lavorano da casa, cosa ne so. Con computer, le prenotazioni. Stasera alle 3 sono uscito a... Ieri nulla da fare, nelle mattina e di sera, nulla, fino alle 6. Oggi mi hanno risposto che è venerdì perché è l'ultimo giorno. Ma ti riferisci al CUP? Sì, al CUP, sì, esatto. Sul sito ci sono gli orari. Oramai tutto lì, perché tanto qua non ti rispondo, tu chiami Sassari, io non so, non ti rispondono, ma mi sa che non ci può andare neanche di persona, devono essere ancora mezzo imballati, c'è un'organizzazione, per carità. Cioè, dalla serie, se non ti fai vedere meglio. Infatti, Simone hai 3 anni che deve fare la visita prematurgica per fare deve cambiare la terapia, capito? Se non cambia la terapia, non può fare un tubo. Rimane senza medicine perché la dottoressa non gliela dà, capito? E quindi ho dovuto telefonare lì, prendere l'appuntamento, e fortunatamente ce l'ho il 18 di questo mese, a mezzogiorno e mezzo al Conti. Ho avuto anche il culo, ce l'ho attaccato a casa. Sì, anche io ne avevo preso uno qualche settimana fa. Quello più vicino era il Conti, cioè più vicino nel senso di più vicino come tempo. Gli altri c'era settimane da aspettare. E poi ho visto dietro, a proposito, siccome ero lì, ho visto dietro, tutti cercando locali, tutti cercando cose, dietro è tutto distrutto, c'è stato un ospedale, un pronto soccorso, tutto quello che ci vuoi fare, un ambulatorio, e invece è tutto distrutto, tetti sfondati, è una vergogna veramente. Già, ci sono dei fabbricati, gli ho detto, a parte il bosco, la pinetta, figurati. Se mettono a posto quei locali lì, esce un bel pronto soccorso e un bel ospedale anticovid, sai. E vabbè, soldi e basta, a posto di sprecare i soldi in fesserie come fanno di solito, la regione, basta per investire lì. Avrebbero fatto un bel ospedale anticovid, sarebbe uscito di lusso, perché lì è tutto, cioè, piano piano, piano piano. Capito? Di più non è alto, massimo sono due o tre piani, non di più. Quindi a voi si lavoravano anche bene, sarebbero fatto una buona serenta, avrebbero portato i pazienti lì, avrebbero sigillato quello che dovevano sigillare, eccetera, eccetera. Tanto lì c'è il bosco, dove vuoi che se da voi devono uscire qualche paziente a farsi una passeggiata, per uscire di quelli che stanno meglio, non di quelli che sono dentro al letto, allettati. Ma se lo pensavano stare meglio, quando lì come si faceva una volta, si faceva una bella passeggiata in pinetta, già c'è stato, già è poco grande. E lo stesso anche Rizzetto, eh. Anche a Rizzedo ci sono dei locali che non si capisce perché non li estendano, non li usino. Oh. Anche lì è grande, c'è anche l'aeroporto tra l'altro. Sì, c'è anche lì, vabbè, c'è anche il vecchio sanatorio, se vogliono, mi è della regione, in pratica, quello che c'è a Rizzedo proprio salendo, che va fino a via Catalocchino. Quindi la vedo, basta buttare giù quello che avevamo costruito tanti anni fa, di ex sanatorio, e rifarlo a nuovo. E ci sarebbe un bello ospedale lì, di lusso. Ma non è. Io ho l'impressione che non lo vogliono proprio fare, capito? No, le cose non le vogliono proprio fare perché con la scusa non ci sono soldi, li dirottano altre cose in modo da togliere i presidi un po' dappertutto. E dato che li stanno togliendo dappertutto, questi presidi, la gente lo vorrebbe andare, se deve morire in casa, boh. Sono dei paesi che non hanno neanche il medico di famiglia oramai. Una situazione veramente brutta, qua la sanità è veramente scesa a livelli molto molto bassi. Sapete, sì, quindi è forte. C'è l'ospedale di Chiesi che è libero, c'è quello di Ozieri che è libero, poi c'è quello di Itri che è libero lo stesso. Quindi ci sono tre ospedali che, volendo investire lì, il fatto che adesso hanno tolto hanno chiuso quasi tutto, perché gli infermieri ci hanno trovati o a Sassari o da qualche altra parte, capito? E mancano i medici di famiglia, quindi a un certo punto non bisogna dire, finché non fanno questa cosa di, non si immagina i soldi che investano su infermieri, medici e cose del genere, almeno riaprono tutti gli ospedali, compreso anche quello che c'è alla Maddalena, che anche quello è mezzo chiuso. Ci vuole un ospedale che è la Maddalena, perché come fa una, se si fa male, cosa del genere, se pigliare il traghetto, andare a, per dire, a Olbia, nuda, in ambulanza, già più gusta. C'è anche quello grosso che è sempre stato semi-abbandonato, di Marco Mera, quello stesso è grande, poteva fare un servizio utilissimo anche per i paesini, tipo Bosa, tipo tutto quello del circondario lì, e invece lasciato come lasciato, oramai sembra un rudere visto dalla strada. Tutti i soldi sempre sprecati, perché fanno le strutture e poi la smantellano o se ne dimenticano. O anche tutte le strutture che avevamo fatto lì verso Ballinca, no? Che erano tutte basse, anche lì c'erano delle cucine, mi ricordo, enormi, tutto abbandonato, tutto in preda agli sciacalli. No, come anche quell'affare che c'è, non so se ci siamo andati a Porto Torres, quella che doveva essere una specie di stazione marittima o non so che cosa, che è proprio sul porto. Qua l'hanno depredata, una vergogna, soldi proprio pubblici buttati in mare, veramente. E quella era davvero una pilla, che mi ricordo 3-4 anni fa, mi pare che avevo deciso di dire, abbiamo fatto una stazione marittima, almeno i traghetti sono a posto, c'è di tutto, eccetera, eccetera, invece si è perso tutto per strada, capito? Hanno abbandonato tutto, una volta mangiati i soldi, come si dice, si era bene in culo. O fallisce la vita, spesso c'è per quelle, capite? Quindi non riescono a fare nulla. Lasciano tutto aperto così, con le stampaglie, quindi entrano in vandali, si portano via tutto, la bandita, tutto quello che c'è. Cucine, la voglia, tutto lo spreco, capito? Come anche la Maddalena, hanno fatto tutta quella cagata per fare il G20, e poi quell'imbecille di Berlusconi ha preso a cambiare tedesco e ce l'ha messa in culo. È tutto da buttare quella donna. Perché poi se sono bombardati da fare il coso lì, a tenerli bene, capito? Perché non è che interrompono, sigillano tutto, fanno una sorta di guardiania per preservare i lavori. E tra la gente di lì se ne portano via interruttori, presa di corrente, termosifoni, condizionatori, è una cosa che non si crede veramente, tutta roba pagata da noi. Sì, tu berrame, sai come vanno, come l'acqua vanno, tu berrame. Passa il domenico, camioncino, prendono, smontano tutto, caricano, se lo portano via, se lo vendono a freddo vecchio. Quanto ne ho visto io, anche nei palazzi lì, che fanno le piazza dei tubi nubi, di scarico il rame. Io l'ho visto qua di fronte, quando Scarpa aveva fallito, che aveva abbandonato la palazzina. No, sono passati domenica con un furgoncino, l'ho preso, mi hanno smontato tutti i tubi, siamo caricati dentro e sono portati via. Compresi anche quelli del condizionatore dell'aria che sono fuori, figurati tu. Sì, ma si hanno danneggiano anche chi lavora con quei materiali, perché c'era un camioncino, tu ricordi, che c'era il macchinario, no? Veniva e ti faceva la grondaia in rame, a uno l'hanno fatto un bel lavoro, tutto finito, eccetera, e domani mattina non aveva più trovato niente, perché tutto il lavoro che avevamo fatto, quello lì, è stato distrutto, perché sono arrivati questi e la notte le hanno smontato tutto e portato via a venderselo di lì al ferrovecchio. Quindi la gente adesso, anche qua infatti, abbiamo messo le grondaie, però sono tutte in plastica, di quella pure super economica, perché se la vedono te ne stanno dentro con la scusa di rubarti le grondaie, roba da matti. Io lo so, escono con furgoncino, cioè con camioncino escono i domini, prendono, caricano tutto quello che c'è, quando vedono la campagna magari che non c'è padrone, cosa del genere, un giorno, due giorni, tre giorni, fanno una settimana, dopodiché prendono, entrano dentro, suonano il cancello, entrano dentro, si portano via tutto. Immaginate che su Salerno a Usilo c'era il vecchio deposito che poi l'avevano sequestrato, delle macchine, delle auto, no? Sequestrate. Beh, sono entrate due mesi e si hanno smontato tutte le macchine che c'erano, pezzo per pezzo, batterie, di tutto, gomme, salvato via, sportelli, tutto smontato e portato via. Non hanno buttato giù il cancello, tanto non c'era né vigilante né nulla. Io mi ricordo che ogni tanto andavano in vigile del fuoco anche, perché la padella segnava questo fumo nero, e era sempre lì a Piandanna, no, dove c'erano l'accampamento. Per carità, quello che c'era lì dentro. Ah, siamo d'accordo. Il fumone entrava dentro all'ospedale, entrava dentro lì a San Pietro. E chiamava i pompieri, chiamava l'ospedale. Perché non ne potevano più ogni giorno questo odore acre di gomma. Ma anche adesso mi è già 4 giorni che io sento odore di gomma verso le 6, a seconda del vento, capito? Sento questo odore di gomma acre dalla parte di Monteone, evidentemente c'è qualcuno che prende le gomme così, li prende buono il fuoco, oppure cavi elettrici, capito? Per fare il pezzolino del rame, gli mettono fuoco e raccolgono il rame e poi vanno e lo portano a Ferrovecchio. Perché lì non ci entra neanche la polizia, perché quando entrano ci tocca buttare via tutto quanto, perché ci sono condizioni igieniche che fanno schifo, ci mettono anche la divisa, è un disastro, cioè se lo fai tutto arrestano, se lo fanno questi qua è una cosa allucinante veramente. E questa è sempre colpa di politici, che la legge è disuguale per tutti, no? Mentre poi ci rivediamo, vabbè, o tu fai così o se no lì c'è la strada vicino, prendi armi e bagagli e sgombera, non ti vogliamo, proprio fuori di via tutti quanti, per inquinamento e danneggiamento della salute pubblica. Non fanno nulla, figurati lì via San Donato, c'era avevano aperto un circolo abusivo, si sono affarrati, già l'avevi visto in televisione, si sono tuffati e in pratica hanno fatto un casino, hanno chiuso quel locale per quasi, se non mi ricordo mai, sono quasi un anno e mezzo, una cosa del genere, non si poteva mai entrare dentro quel locale, i cessi tutti messi male, sfasciati, sporchi. Se apri tu un locale del genere ti avrebbero messo in galera, ma questi nigeriani nulla, non hanno fatto nulla, hanno preso, li hanno sigillato solo il locale e basta. È tutto un macello, abbiamo delle leggi particolari noi. Comunque, oggi non si è sentito nessuno, è tutto, forse c'è troppa propagazione. No, lo so, comunque non sento nessuno neanche io, perlomeno oggi. Magari entrano stasera verso le 7, 7:30, di solito entrano a quell'ora lì. Sì, forse saranno in giro, anche se la giornata non mi sembra molto, sì, c'è un pochettino di vento, c'è anche il cielo così così, però ieri è andata male perché c'è stata anche la pioggia, oggi non si sa, è una via di mezzo. Nuvoloso, nuvoloso, non so se piove, ma c'è un bel vento, sono uscito a portare il cane e ci avevo appena appena dei brividi, mi sono misurato la temperatura e sono arrivato a 37, ho preso e mi sono messo le babbucce, il pigiama, io di travasi, la bianco, cane, esci a fare la pipì e a fare la cacca, ho provato 3 volte oggi, ho preso anche freddo. Sono rimasto qua a casa, siamo scesa giù, si è pigliato un caffè e poi salita anche lì, siamo a freddo. Occhio che se secondo dove vai, se fare visite non si fanno entrare, se c'è la febbre. No, però non devo fare visite per niente, devo dire tutte già fatte le visite. Ma adesso non ne ho, sono tranquillo, ma poco fa, cioè quasi una mezz'oretta fa, ho misurato le 37 giusto giusto. Adesso si è stabilizzato tutto. Non lo saccio. E come diceva quello lì, una scusa buona ci può da morire. Allora, è come tipo mal di denti, quando vai dal dentista ti passa il mal di denti. Dice no, me ne sto andando, arrivederci. Ci vediamo l'altro giorno. No, ma quello più che altro è quando le chiedi preventivo, no? cosa dici, no? Forse è meglio che metta in caldolore. Ah beh, adesso questo va bene. Anche mettere venti nuovi. C'è una macchina accesa per mettere i denti nuovi, come andare in Croazia a gira a gira, almeno ti fai una gita, stai in albergo due giorni e poi sei tornato in Italia. Ma lì ci sono anche studie poco tranquillizzanti, perché una volta fatto, arrivederci e grazie. Quindi ci potrebbero essere anche dei grossi problemi. Quelli ci hanno fretta, capito? Ci hanno fretta di fare cose e poi di lì è molto facile anche cambiare locali in un giorno, passare da un posto all'altro e poi io quante storie se ne sento. E ormai guarda che di tutto riduce. Non sanno come fare i soldi, ho visto su internet, tanto se ne inventano qualcuno, e su Facebook, le pubblicità che ci sono, tanto se ne inventano qualcuna. L'altra volta c'era, se vuoi fare la patente, è stata due ore, mandaci i dati, la fotografia e te la facciamo avere. Cazzo, io ho detto, la motorizzazione. Non è buona, ragazzi. La patente è falsa, ti fanno. E poi rientravo in Italia tutti felici e contenti, al primo posto di blocco sequestravano tutto. Non sanno come fare i soldi, intanto ci inventano qualche cosa. Adesso c'è la prostata, c'è la prostatite, poi cosa c'è? Ah, l'altro giorno ho visto quelle, la crema per il pisello per farla allungare. Intanto si inventano qualche cosa, si inventano. Ah, poi c'è il periodo che di Amazon, famoso, manda 200 euro, poi già gli arrivano domani i soldi, tutta roba domena. No, ma vabbè, Amazon è... quando lo sa Amazon vero subito li fa fuori, perché è molto protettivo nei confronti dei clienti, infatti è uno dei pochi che non fa discussioni, quando c'è qualcosa che non va te la cambiano immediatamente. Se trovano qualcuno che fa il nonfio lo denunciano in mezzo pianeta, perché quelli sono dappertutto. Purtroppo è così. E la storiella quella là della telefonata vecchietta, secondo me te la conosci anche tu. No, quella no. Me l'ha raccontata uno, no? Che sui social hanno messo questa cosa qua di questa vecchietta che telefona questa telefonata e le dice guarda, lo hanno detto anche in chiesa, anche il prete l'ha detto, che quando ti iniettano il vaccino ti mettono questa cosa che poi adesso che attivano il 5G ti comandano come un robot, se ti fanno venire tutte le malattie che vogliono loro. E quindi insomma delle cose che veramente te ne scappa la risata. Ah, quello già è vero, c'è un bel gente fissata. Capito, fa poco ci metteranno un microchip a posto del Green Pass per controllarci come fanno i cinesi. Già lo sappiamo che già quando nascono la piccola cosa nel telefonino li controllano, hai capito, se sgarri ti arrestano immediatamente, quindi ma qua il 5G ancora non c'è, ma comunque sia ci sono alcuni telefonini che in pratica vanno in trasmissione da soli. Dici, mi serve una macchina, immediatamente te ne va la pubblicità di non so quante vite, hai capito? Me l'ho fatto vedere su coso, su Sticiano Ortizia l'ho fatto vedere. Quindi figurati tu, non ti fidi dal telefonino Android, no? È un casino, ormai ci spiano tutti. Non ci agganciamo, pensiamo che non ci senta nessuno, invece a voi che ci sento, che ci spiano, mattina e sera. Ma quelli non sono solo i cinesi, no, che lo fanno, anzi sono molto di più gli americani, che ne hanno fatto tutti i curdi, adesso si lamentano dei cinesi, diciamo lo vuoi dire curdo dall'Aino, no? Ma per anni e anni e anni gli americani hanno spiato tutti i telefoni dei politici, ma ci siamo dimenticati il Grande Fratello cosiddetto. Poi mi fa ridere la gente, va a protestare per tante cose, ma qua, ma là, ma la pubblicità, eccetera, e non si rende conto che c'ha due nemici potentissimi, basta fare il casino che hanno fatto avanti ieri, che le hanno è crollato tutto il sistema dei social, che installando quella porcheria possono controllare tutto, c'hanno i dati di tutto, quello che mangi, quello che non mangi. Poi l'attivazione in audio, eccetera, guarda, se tu ti guardi, tanto è gratuito, su replay c'è una specie di sceneggiato fatto da dei ragazzi che sono in un istituto francese. Questo praticamente cosa fa questo ragazzo? Siccome è molto molto abile in informatica, riesce a entrare nei telefonini praticamente con un codice che tutti scaricano, perché dice guardate, questo è il software di collegamento, e praticamente c'è accesso a tutto, anche alla telecamera, l'azione, lo spegne il telefono, lo accende. Quindi sono tre cose ovviamente che si possono fare, perché il telefono quando è acceso non è altro che un computer attivabile da remoto su qualunque sua funzione. Sì, già quello già lo sapevo anch'io di quella cosa lì. Bello è quando uno si da remoto si installa impianto d'allarme, anche le auto, visto con quella, aspetta, l'ho visto oggi, con un videogioco di quelli piccolini, infatti capivano le macchine, tutte le macchine aprivano e rubavano, ma avevano modificato il software, quello aprivano le auto, quelle senza cosa, capito, senza chiave. In pratica con quelle che apri con telecomando, la prima con questo videogioco piccolino. Sì, aprivano anche quelle con le chiavi, comunque, quindi non è una grande novità quella, sono sempre aperte le macchine in tutti i modi. Quello lì a volte se raccomandi si può utilizzare uno scanner particolare che in pochi secondi, anche se il rolling fa un'immagine perfetta del telecomando, capito? Quindi lì prova un po' tutti. Alla fine te l'apre, non è che poi sia una cassaforte la macchina, quindi il sistema c'è sempre. E infatti dal Game Boy in pratica era, con quello lì aprivano le macchine, l'ho visto stasera su Google, l'ho visto. No, io ho un telecomando invece qui di quelli, te ricordi quei telecomandi piccolini che fanno solo tre funzioni, accensione, volume, cambia programma e audio, basta, non c'erano altri di quelli, tu schiacci il pulsantino, quello rosso per lo spegnimento, accendi il televisore, finché il televisore non si spegne, non memorizza il codice, bello ciò, addirittura accendo e spengo qui gli ultimi i televisori di ultima generazione con quel telecomandino piccolino, ma è roba vecchia, mi roba degli anni 80 quel telecomando. No, io invece ne ho preso uno che si chiama Superior USB e te lo programmi per qualsiasi televisore, c'ha l'USB, no? C'è il programmino al computer, facile, le dici cosa puoi pilotare, che televisore, satellitare e così via, e te lo programmi, funziona istantaneamente e gestisce anche varie cose, perché fa da 3-4 telecomandi se non ricordo male, e costa una fesseria, c'è anche su Amazon, l'avevo preso su Amazon. Al posto di stare lì ad avere 20 telecomandi, ne hai uno che ti fa tutti i televisori. Ah, come la pennetta che stanno vendendo questo periodo. C'è un radioamatore che sta vendendo pennette a nastro, di quelle per far diventare il computer un ricevitore. Per 4 euro ne vuole, di quella pennetta celeste, con l'attacco SMA. Sì, c'è anche l'altro che vende il codec Ambet 3000 per ascoltare il digitale e così via. Ma davvero un po' come... poi alla fine hanno prestazioni ridicole, non ti credere che per 33 euro le manca praticamente tutta... non è neanche vicino a una normale radio. Tu pensa che i portatili che ho io spesso non riescono a comunicare, con, anzi quasi sempre non ci riescono, perché non si capisce un tubo, a comunicare con gli apparati, certi apparecchi dalla Baofeng, dalla radio TT che costano ancora di meno di Baofeng, perché sono delle ciofeche proprio, serve anche ascoltare le trasmissioni professionali eccetera, che con quelli accendi e parli e ricevi benissimo, con quelli là è un casino veramente, è robaccia tutta voi. No, io non ho mai usato di quella roba lì, la verità, anche perché il computer ce l'ho, ma ce l'ho, non lo sto più usando. Ogni volta sale con questa cosa qui, io devo sempre attaccargli come si chiama, poi agganciare la mia wifi. Prima c'avevo l'aggancio gratis, adesso cazzo è un casino, capito? Passavo la pennetta e mi agganciavo per dire allo Teccalo Felice, bello tranquillo, e andavo dove volevo, o alla Kuwait. E poi c'è quello di fronte ai videogiochi. Adesso invece c'è la password, hai capito? Devi registrare cosa del genere e sono rimasto fottuto a far culo allora, ho preso e ho conservato tutto. Ah, perché tu eri uno di quei pirati che si agganciano ai wifi liberi così? Allora, mi agganciavo, ne avevo tre wifi liberi, no, qui, figurati. Mi avevano dato, Adriano mi aveva fatto un antennino con una chiave di cuore, ma c'erano 50, 60, no, erano 70 centimetri di giri, non mi ricordo se non era l'otto, era un altro regista da 5 mani pensa, però. In pratica l'agganciavo a quei computer modello vecchio, ma turbavami. Figurati che io riuscivo a rilevare i segnali da casa mia, da quella mente aussi, capito? Di quei segnali liberi, invece adesso quell'antennino ho comprato una specie di antenna TV, 12 elementi con la cinese, no? Non serve a nulla, quella è poco sensibile, ma quella che ho fatta, quello di occore autocostruita, era un demonio, era quella direttiva fatta così, bella, bella veramente, l'ho regalata a Stefano, l'ho regalata a tutto, Stefano, usa l'altra, proprio computer questa, con questa fino a 1,5 km a voglia che prende. Sì, ma adesso con le nuove password, con la VPA2 anche, ti viene molto male. Prima magari con la VPA semplice c'era un programmino e ci poteva entrare anche se c'era la password, ma con le ultime che ci sono ti viene un po' in salita se non sei un esperto. E poi comunque si può sempre vedere, perché il mio ad esempio basta entrare nel router e ti dà subito l'indirizzo dell'eventuale intruso, perché ti dà il MAC address. E quindi basta registrare quel MAC address e mandarlo, oppure anche fare rilevarlo tramite degli apparecchi particolari, e quindi ti sgammano. La cosa più bella invece sarebbe di farti collegare e di mandarti un aggiornamento di Willy Strani che ti formatta l'hard disk e te lo sfascia pure eventualmente. No, in quelle libere entravo e basta, io non in quelli con la codice, già lo so che c'era, ma bastava fare claccare, non mi ricordo cosa diavolo era, tirava tutti dava tutti i codici eccetera eccetera, quindi entrava in quella, non ho mai usato i codici, solo quelli aperti come la hotel una volta, adesso invece c'è il codice, non me ne fotte niente. Per quello mi metto il wifi a casa e se la miglia è culo, dato costa intorno a 29 euro, mi diciamo sempre 29-30 euro, la cifra è sempre quella. E poi tra l'altro arriva anche la fibra da te, quindi c'hai la voglia che ne è da scegliere. Ah beh, adesso comunque so che dovrebbero installare nei ripetitori telefonici il segnale wifi gratis, quindi dobbiamo solamente aspettare a quanto so io, quindi non c'è più bisogno di usare nulla. Agganci direttamente il loro, ti dicono in che punto è, come vai lì, agganci un codice, ti agganci come abbiamo fatto col tram, che adesso non ho, la verità non so più se funziona, abbiamo fatto una sperimentazione mi sembra 2 anni fa o l'anno scorso, di avere il segnale wifi free dentro al tram, tu non facevi altro chiedere il codice all'autista e tu vedevi tutto il telefonino. Sì, ma c'è già, lo dici tu, c'è già, c'è una stazione di servizio, quelle grandi, c'è nei supermercati, poi c'è da varie parti, gratuito, metti il codice e vai. C'è anche per i cittadini, credo che sia a Sorso, se non ricordo male, a Sorso è gratuito perché c'hanno degli access point, ma tanto la frequenza purtroppo non arrivano da tutte le parti, perché a Sorso c'è anche via stretta e comunque un segnale che sia 2,5, che sia 5 giga, anche se rimbalza un pochino, però è un po' difficile da propagare per tanti metri, capito? A meno che non sia in linea ottica, lo vedi, però l'hanno messo anche a Sorso, mi hanno detto, ed è gratuito del comune, è un servizio che danno, e credo che si voglia fare una specie di dare a tutti gratuitamente praticamente nel progetto Digital Device un certo po' di banda, che ne sono megahertz, per poter usufruire di una connessione non troppo veloce, però comunque almeno per la posta e per i vari servizi funzionale, capito? E questo è un progetto, ci sono dei progetti di vari comuni, chissà che lo facciamo tutti. Speriamo, ma anche dovrebbero fare anche quello satellitare, quanto mi ricordo io, cioè in pratica internet direttamente via satellite, con la parabola, a quanto mi ricordo, dovrebbero farlo, perché avevo intenzione di dare segnali a tutti gratis, capito? Ma non conviene quello, capito? Prima, innanzitutto per le potenze in gioco per raggiungere, perché c'è un amico che ce l'ha, ma è più le volte che non funziona che quelle che funzionano, perché è influenzato sia dalle condizioni meteo, quindi dalle nuvole, cariche d'acqua, già ti stanno disconnettendo. E poi il puntamento è estremamente preciso e la cosa peggiore è la latenza, tu chiedi una pagina e ti arriva inevitabilmente dopo qualche secondo, quindi è una cosa estremamente lenta e poco fruibile, capito? Rispetto a quello che poi è valori di banda che puoi trovare anche su un banale access point terrestre. Tu pensa che la mia, che è la Linkem, il segnale lo prende praticamente da Tissi, da un ripetitore che c'è a Tissi, perché qua in zona gli altri sono pre Danieda, però sono più deboli, arrivano, evidentemente sono puntati da altre parti. Quello di Tissi arriva forte, a volte mi dà anche 30 mega di banda, quindi, però il satellitare, guarda, per averlo visto è una disperazione. Speriamo che lo facciano bene come si deve, se dovessero farlo, tutto dipende da quello che vogliono fare ormai. Potevano installare un coso invece, un ripetitore per la 27, su. A me l'avevano parlato tutti, il mio casino sarebbe stato. Se vogliono, no, non è il problema del ripetitore, perché il ripetitore qua servirebbe a poco, perché innanzitutto dovrebbero avere tutti la possibilità dello SHIF che non tutti gli apparati hanno, e poi il problema è la gestione, capito? Con tutti gli afferratori che ci sarebbero durerebbe mezza giornata. Poi ci vuole terreno dove metterlo, tieni presente che le eventuali cavità sarebbero anche grosse quanto una tarburlana di quella del petrolio, e ce ne vorrebbero due, credo, due o tre, perché dipende da quante ce le vuoi mettere, è un vero casotto, no? E poi servirebbe, ripeto, a ben poco. Ci sono i ripetitori, ogni tanto si sentono in 29, quelli amatoriali, sento anche bene, però poi bisogna vedere quanto sono grandi le installazioni, capito? Perché di lì è tutto più grande, cavità, antenne, tutto quanto. E poi ci sono gli apparati che non tutti ci hanno. Ma adesso con la liberazione, con la liberalizzazione della 27 in maniera totale, infatti non ci sono neanche più gli omologati, le etichette non valgono più. Adesso vale solo la conformità dell'apparato, se è conforme agli standard o no, standard europei. Però su qualche sito ho visto che hanno aumentato tutti gli apparati, anche perché c'è molta gente che sta rientrando, capito? Ma qua non lo so, però in linea generale in Italia si è notato un forte aumento della vendita di questi apparati, perché sono liberi. C'è anche uno di quelli marcato, c'è, ma per carità, no? Per carità, guarda. Un lavandino è quello che ho preso io, un lavandino. È bello di estetica, quello che è, non prende colpi, ma esce 2,5 watt, 3, non di più. Se vai a modificarlo, se ne va tutto a fanculo, preso, lasciato così com'era, no? Gli ho tolto la modifica del watt, usciva in AM, l'FM non usciva, capito? E quindi ho preso e l'ho lasciato così, e l'unica cosa è, non puoi neanche modificarlo, di è un microfonino che sembra che stai parlando dentro una graticola. Ho dovuto mettere il DM1000, l'unico microfono che va bene è o il DM1000 o il MB4 che esce bene. Se no il microfono suo originale è talmente basso di radio che ci devi stare con un bacchino con l'orecchio attaccato alla colonnina. Quindi no. Invece i 3009, per dire, gli altri modelli più seri, sempre marcati c'è, quelli già funzionano bene. Ma quello che ho preso io, per carità, quello che marca è adesso. L'ho prestato a un amico, ha detto mettetelo in macchina, detto, con la magnetica, detto, così, detto, ti diverti, perché io ce l'ho a casa e ce l'ho, detto, buttato qua. Non sto manco usando, detto, che mi è una vergogna. Guarda, io prima di questo, che è nuovo praticamente, ce l'ho neanche una settimana, ho preso, avevo uno piccolino, che quelli PFI, che poi lo stesso della Midland, lo stesso della CRT, ed è quello fino, che quasi ci sta dentro una tasca. È da macchina, per chi non c'ha spazio, capito? Perché le macchine adesso sono un problema, non hanno cassettini, non hanno niente, non sai dove metterli questi apparecchi. E ti devo dire che senza toccare niente, con i soli tasti di programmazione, lo metti in determinate modalità e passa da quei 3-4 watt originali, passa a 8 watt tranquillamente. Certo, i microfoni sono quello che sono condensatori, quindi alcuni sono buoni, altri fanno schifo, però ho visto che vanno bene. La cosa in cui vanno male è il fatto della ricezione, perché paradossalmente li stanno facendo meglio i ricevitori e quindi sono molto più chiusi, quindi quando tu senti le radio espanse, tipo i preamplificati eccetera, a volte non riesci a capire quello che dicono, perché è come avere un filtro stretto, capito? E questo per rimanere nel range europeo del coso lì, dell'occupazione di banda. Se sono tutti omologati si sentono perfettamente sia in AM che in FM. Se uno aumenta poco poco la radio, va oltre un centro limite, no? Inizia a strappare. Non so se l'hai notata questa cosa. No, la verità, su quello che ho io non mi è capitato, perché io ho il polma, c'ho io, è un polma quello che avevo preso io. Io ho capito quale macchina stai dicendo tu. Sembrano un frontalino sempre, in pratica la cancia in macchina c'è l'attacco con l'antenna nel fianchetto. Sono belli, sono quelli con gli apparecchi, e ci sono anche parecchi canali, c'hanno AM, FM, USB, LSB e ne ha voglia, e anche i batti si possono aumentare, ma oramai bisogna da poco vedere che faranno le baracchino che puoi mandare le immagini, vedrai, filmati. Le immagini le posso mandare, le mandano anche adesso, se passi sui canali alti vedi le telefoto che mandano. Basta sapere conoscere i segnali, perché non è facile spesso identificare le emissioni. Un attimino, ma lontano, che mi devo mettere la camera, mi devo fare tutta una zanzara. Ah, dove si compra, sai che cosa, per quel tipo di cosa? C'è un antifiammatorio, si chiama Dovo, si chiama. Quando ti pugge la zanzara ti mette appena quello e ti passa immediatamente l'irritazione. Anche se per caso tocchi qualche tipo, qualche erba di quelle che ti fanno incominciare a sentire i prurizzomi. Mamma, basta ti compri quello, è perfetto. Va bene, metti pure la crema, già sono qua l'ascolto. Rieccomi, Antone. Io sono qua. Stavo guardando il telefonino. Ieri ho visto Piazza Pulita, l'accesso, Bari Casino, la Salvini e la Meloni, tutti i fascisti si avessero abbigliato per avere i voti. Poverina la gente che ancora crede a questi venditori di fumo. Per carità, c'è Draghi che li tratta come dei bambini dall'asilo. Questi pensano che basta schioccare le mani e tutto si risolve. Quell'altro imbecille non fa altro che cambiare magliette, oggi c'è quella dei vigili del fuoco, domani quella dei pompieri. Ma perché non si vergogna? A risolvere i problemi ci occorre gente capace, non quella lì che è buona solo a criticare, non le va mai bene niente. Oh, io, povera Italia, speriamo che la gente capisca chi c'è davanti, che tipo di personaggi c'è davanti, se no veramente saremo nei guai. Ti volevo dire, hai notato quante zanzare ci sono adesso? L'estate praticamente, perlomeno qua in questa zona, ci hanno lasciato tranquilli, adesso invece sono invisibili e ti pungono, maledizione, sono in ritardo, anche loro stanno adattando. Sono piccole per esattezza, non è che sia invisibili, sono piccole. Io vado a parlare un film per dire, salendo, ci sono alcuni dove c'è la torrefazione del caffè Maglia, lì ci sono un paio d'alberi, un paio di arbusti ci sono, quando passo lì e incominciano a mangiarti le zanzare, una cosa è allucinante. Per carità, e poi sempre in faccia mi ripetono. è una cosa allucinante dentro da lei che ci sono in giro. Ci sono d'estate mancuna perché c'erano 40 gradi, forse erano, ma adesso già è tutto pieno. Poi vabbè, a parte ogni tanto scoprono qualche zanzara nuova. E qua ancora siamo fortunati, in Africa fanno migliaia e migliaia di morti, trasmettono anche la malaria che lì è endemica. Meno male, sembra che abbiano scoperto un vaccino finalmente per quella malattia, ci ha fatto fuori poca di gente. Ti volevo dire, volevo approfittare un attimino, non so se sia un compressore o se sia un impiasto questa scritta, aspetta, sto premendo un tasto, guarda se la radio cambia, soprattutto com'è poi, vediamo un po', no, non funziona, ma non funziona. Non cambia niente, è come...